Ah, cioè, sei da... Ah, ok. Va bene. Okay. Ho detto va bene, no? Ok. Benvenuti, episodio casuale su... È passato talmente tanto da un episodio all'altro che per fare un episodio su un film e un just chatting al tardi. Esatto, bravo, hai capito cosa voglio fare d'ora in poi, no? E, un episodio in cui ci aggiorniamo, chiacchieriamo di cose che abbiamo visto e di cose che abbiamo letto. Solo perché ti vergogni. E, no, stavo giusto dicendo che in realtà in questo periodo non ho visto un granché. E, quindi mentre ci penso potete cominciare voi. Però hai letto qualcosa, quindi aspettiamo la tua lettura. Sì, no, devo dire, no, ma non devo dire questa cosa che ho letto, devo dire che verrà, vabbè, ci sarà una serie TV sulla cosa che ho letto, ma non c'entra un cazzo. Ma come scommessa, non ho capito. No, che hanno comprato i diritti. Amazon c'ha i soldi. Ah, quindi non è una scommessa, è proprio la realtà. No, cioè, no, uscirà davvero prima o poi un film su sta roba. Una serie su sta roba. Cazzo l'hai visto? Abbiamo iniziato Dungeon Food. Stiamo guardando Dungeon Food, sì. Non so, sapete cos'è Dungeon Food? Sì, no. L'ho sentito. Io no. È un è un anime tratto da un manga su Netflix e che parla di praticamente in un mondo in cui... Ah, sì, giusto. In questa... I mostri sono buoni. No, cioè, sì, buoni, ma in senso sbagliato. No, è praticamente una città nasce, una città molto grande, nasce su aveva vicino un castello, una cosa del genere, una sorta di palazzo gigante che è stato interrato di fatto ed è diventato un dungeon. Un dungeon gigante che va per piani, da piano terra a piani sottoterra, che poi in realtà non lo sono, dipende un po' dal piano, eccetera, governati da uno stregone. E praticamente in questo villaggio sono diventati quasi tutti avventurieri. Di fatto molte persone vanno nel dungeon per cercare di arrivare allo stregone e ucciderlo e reclamare il suo castello, la sua fortezza, il suo dungeon. E i protagonisti sono avventurieri che praticamente hanno perso una loro compagna mangiata da un drago dentro il dungeon, decidono di tornare ma si accorgono che non hanno soldi e che ogni volta fare una spedizione per il dungeon gli costa un botto, soprattutto in cibo, perché loro devono stare giorni, settimane, eccetera, per arrivare ai piani più bassi. E quindi si alleano a questa sorta di, cos'è, un nano praticamente. Un nano barbaro. Un nano barbaro e cominciano a, cioè vogliono andare nel dungeon a ritrovare la compagna che è stata divorata dal drago. E però invece che comprare provviste, ogni puntata cucinano i mostri che trovano. E quindi sono tutte le ricette di sti cazzo di mostri. E sono, nel manga ci sono anche le tabelle nutrizionali, c'è un botto di roba. Qua un po' meno, però è molto fedele e non ha molti filler, perché comunque pari pari al manga e comunque è Netflix, quindi non... È molto carino, non è che succeda chissà cosa, perché di fatto loro continuano ad andare avanti, cioè non c'è molta evoluzione dei personaggi, non c'è un... È carino perché è molto leggero e ci sono le ricette dei mostri, ogni mostro è diverso e quindi l'ultimo che abbiamo visto era quello del Mimic. Sì. Cucinano Mimic? Sì, cucinano Mimic. Oh mio Dio. Sì, ma mangiano di tutto, mangiano... c'è anche gli ectoplasmi che i fantasmi che li attaccano, cioè. Oddio, ho sempre voluto sapere che sapore ha. Ed è bellissimo perché, vabbè, alcuni mostri sono un po' diversi dai mostri che ci aspettiamo, quindi tipo le armature viventi sono un po', hanno un segreto all'interno, eccetera eccetera, però ci sono anche i mostri più o meno classici e ci sono i sapori, fanno ricette molto simile alla tradizione giapponese, ma con mostri. È molto carino. Se vi capita, Dungeon Food. Carino. E Poi abbiamo iniziato un sacco di roba, però se intanto sì. vuoi andare avanti e se vuoi sparare tu, Jacopo. Ah, io ne ho un macello. No, in realtà no. Allora, consigliatissima Shogun. Allora, prima che tu cominci, scusami. Noi abbiamo iniziato il primo episodio. Sì. È fighissimo. Ma Angela ha un problema. Io tengo un problema. Cioè che devo stare veramente tanto attento. Uno, non capisco una sega nel primo episodio, perché non mi ricordo i nomi delle famiglie e tutto quanto. Quindi o sono particolarmente sveglia e riposata, o altrimenti mi addormento malissimo. Allora, e quindi non riusciamo ad andare avanti. Questa mi sorprende, questo twist. Me l'aspettavo da te questa cosa. Allora, e invece no, che... io lo voglio vedere. Allora, vi dico che io sono abituato a leggere sottotitoli, quindi... Non mi pesa, e dopo una o due puntate, dopo la prima, comunque la gente più o meno ti ricordi chi è, perché i personaggi principali sono tipo quattro, quindi non è che, cioè, il problema del primo episodio, secondo me, è che ti butta in mezzo e non Ci ti sono spiega un tutti e cazzo. quattro, Esatto, tutti insieme lì, non si capisce un cazzo, ed è fatto anche un po' apposta, perché vi spiego, vi introduco brevemente la serie, anche se voi già l'avete vista, anche per Andrea. Shogun è una serie storica basata su un libro su cui hanno fatto anche una miniserie tipo negli anni 80, e questo libro è un libro storico anche questo, ma mezzo vero, mezzo no, nel senso che sono ispirati per scrivere questo libro ad una storia reale, realmente accaduta, cambiando i nomi dei personaggi e cambiando qualche dettaglio. In realtà la maggior parte delle cose che succedono sono successe davvero. Cioè, tra l'altro, penso che il tizio giapponese, cioè il capo della casata protagonista, mettiamola così, della serie, è praticamente uguale a quello che è esistito davvero, al tizio che ha ispirato, insomma, gli eventi. La storia è di questo inglese, di questo marinaio inglese che lavorava per la Compagnia delle Indie Orientali Olandesi, che arriva in Giappone ed è praticamente il primo inglese ad arrivare in Giappone, perché a quel tempo c'erano solo portoghesi, c'erano solo tipo preti che stavano lì in missione, no? Per far convertire i giapponesi alla religione cattolica, ed è lui, diciamo, come posso dire, il punto di vista del pubblico, non so come dirlo, cioè, nel senso che lui nella serie parla inglese, cioè come attore, cioè proprio come parlata inglese, ma in realtà loro parlano portoghese, cioè le persone, diciamo, occidentali fra loro si parlano in portoghese in realtà, solo che siccome la serie tipo americana non potevano farla tutta in giapponese e in portoghese, quindi l'hanno fatta in giapponese e in inglese, che è un po' confusionale come cosa. E quindi tu capisci solamente quando parlano, cioè, o meglio, la serie è sottotitolata, questa. Però la cosa figa su cui la serie mette molto, diciamo, l'enfasi è che lui non capisce un cazzo all'inizio. Quindi c'è molta attenzione su quello che si dicono i giapponesi fra di loro, quello che lui capisce, Ma come lui si ha traducono. anche il gap culturale che è gigante. Sì, cioè è letteralmente una persona che arriva su un altro pianeta. Infatti, Cioè, esatto, quello per me è stato veramente fighissimo, cioè che lo trattano come un film di fantascienza, cioè come una puntata di fantascienza. Lui arriva lì ed è un alieno. sì, ha solo sentito leggende assurde di questi barbari. Che poi cioè, vengono confermate alcune di queste, però anche loro come trattano lui, cioè è veramente figa per quanto è accurata e onesta in molte cose, cosa che di solito i giapponesi tendono a non fare, cioè i giapponesi tendono a non avere questo livello di, come posso dire, di onestà brutale per certe cose, mettiamola così. È la stessa cosa che c'è un po' in Blue Eye Samurai, che per un altro motivo per cui mi è piaciuto un sacco, che ve l'avevo consigliato. Ovviamente l'altro motivo è che è molto occidentalizzata, quindi è molto all'americana, molto alla Game of Thrones, però comunque si trattiene parecchio, cioè non è tipo super sanguinaria o okay. E quindi questo, vabbè, ve la consiglio. Pluto, me l'ha consigliata Valerio, mi ha costretto a vedere il primo episodio, Valerio. È un anime. Che è un anime, bellissima. Sono 8 puntate, inizia e finisce, basta. Cioè, proprio iniziato, finito, basta. È stupenda. Non vi dico nulla, non vi voglio dire un cazzo perché è meglio non sapere nulla. È un manga famosissimo, fantascienza. C'è ancora, scusami, c'è ancora su Netflix perché avevo sentito che l'avevano tolta. L'hanno tolta, ma è no, no, mi ha no. detto che l'aveva tolta. Ma non è prodotta da Netflix. Dovrebbe essere sì, proprio Netflix. Ah, ok, posso allora. Sì, c'è ancora su Netflix, ma è prodotta da Netflix. Quindi non credo la toglieranno. Il primo episodio potete vedere solo quello anche, cioè nel senso, poi probabilmente vi verrà voglia di finirla, però già il primo episodio, il secondo cioè, mi hanno tipo ridotto a uno straccio, infatti ho insultato Valerio. Altre cose che sto guardando... Ma tu hai visto Il problema dei tre corpi? No, perché Valerio mi ha detto di leggere il libro e quindi probabilmente leggerò prima il libro. Credo. A me hanno detto tutti di guardarlo e boh, però c'è troppa roba, quindi prima o poi... Tu non l'hai visto, quindi? No. Però me ne hanno parlato tutti benissimo. Ma me ne hanno parlato benissimo come i soliti casi Netflix, quindi non è neanche detto che poi sia effettivamente una serie per me. Sai quando escono quelle serie Netflix tipo Dark, eccetera, quindi che per me sono sola. L'incubo. Ma tu sei tu che non la volevi vedere? Ma no, mi ha detto che non ci sono gli alieni. Nel primo. Non si sa poi proseguendo. Vabbè, inizio dal primo, me lo guardo da sola. No, io ho un problema con gli alieni, ma se gli alieni fanno già parte dell'universo, stile Star Trek o Star Wars, va benissimo. Cioè, una volta che si sono una popolazione assodata, va benissimo. Sono le robe del tipo, mio Dio, cos'è questa ombra che potrebbe essere un disco volante? È così il film. Ma no, mi ha detto che non è così. Ma sì, no, è così. La mia collega mi ha cioè, detto non vedi gli alieni, ma è tutto un detto non detto. Vabbè, lo guardiamo. Me lo guardo da sera cosa c'è, vabbè. Tu non sei affidabile, visti i tuoi riassunti. Vabbè, per finire Invincible... che io non ho poi più continuato. Io l'ho continuata dopo aver letto in realtà il fumetto. In realtà io sto un pochino più avanti di dove è la serie ora, leggermente. E devo dire che hanno fatto delle belle scelte. Adesso non voglio spoilerare, però leggendo il fumetto prima... Ho detto, minchia, che merda. Poi ho visto la serie e ho detto, ah no, cazzo, hanno cambiato quei 2 o 3 dettagli di cosa succede prima, dopo e come succedono le cose, che l'hanno veramente migliorato un botto rispetto al fumetto. X-Men 97. Ah, quello abbiamo visto l'inizio di un episodio. Cosa? X-Men. È vero, poi dovevo andare alla stazione. Sembra molto nostalgia. Sì. Operazione Nostalgia. Io non ho nostalgia di X-Men. Io non ho mai visto l'originale. Davvero? No. Ma che infanzia hai avuto? Non so, non è entrato nel giro. Non ci sono entrato. E quindi lo sto guardando per curiosità scientifica, praticamente. Per fare tipo... Per farmi il conto mentale di quante volte un episodio fa l'occhiolino tipo J.J. Abrams, tipo, ehi, questa cosa è nostalgica. E io non lo capisco perché non so che cazzo sia. Però lo stile com'è, ti assicuro che almeno i primi 10 minuti che abbiamo guardato è uguale al cartone. Identico. C'erano solo magari quello, svecchiato diciamo che... in alcune cose, ma... Diciamo che arriva a dire cose, a fare cose molto attuali che non mi aspettavo. Sinceramente ci vanno giù con la mazza, col mazzafrusto in alcuni momenti, proprio dicono le cose chiaramente come stanno, che mi è piaciuto molto, insomma. Specialmente sentire certe cose da Magneto, però non dico altro perché altrimenti... No, anche quello prima o poi lo guarderemo, ma adesso... No, abbiamo visto Percy Jackson, che fortuna. Sì, non ne parleremo. No. Non guardatelo. La serie. No. Allora, ti ricordi la serie di Missione dei Templari? Ne abbiamo parlato. È vero, sì. È uguale moddato con i dei dell'Olimpo. Vabbè, sì, ma sono dai, 12 anni anche gli attori, non è... È uguale. No, quello avevano 16 anni almeno. Ah, beh, che storia. No, allora... Era proprio tutto da buttare, dai. Anche qua, ma invece sì, è no. Il primo episodio è carino, il problema è che va oltre. Esatto, che ti sembra pure da poco. Quello l'abbiamo finito, e anche, abbiamo guardato anche Avatar noi. Ah, è vero. L'ultimo dominatore dell'aria. Ah, ok. Anche io ho avuto un attimo, ci ho messo un po' di... The Last Airbender, Avatar, la serie. Ed è molto carina la serie. È molto molto carina. È molto carina e è molto il cioè io avevo visto il cartone una vita fa quando lo davano su Nickelodeon in TV e mi era piaciuto un sacco, però l'avevo visto appunto cosa avevo 12 anni, una roba del genere, 14 anni, vabbè, comunque una marea di tempo fa, però è... Cioè, io almeno me lo ricordo così il cartone, cioè me lo ricordo così proprio il cartone. Sì, non ha niente a che fare col film, o meglio sì, nel senso ovviamente la trama è la stessa, cioè la, diciamo, la base della trama è la stessa, i personaggi sono gli stessi, però allora ha il gusto di avere i personaggi della loro etnia di riferimento e dell'età di riferimento, mentre il film che era uscito era tutto sballato. E B... Ah, cioè, nel senso, hanno l'età giusta. Hanno l'età giusta. Sì, esatto. Ha tipo 12-13 anni. E non c'è e non c'è per niente whitewashing, come è giusto che sia. No, okay, anche perché il cartone sembra cartone. Riuscita. Sì, sì. Sì, a me è piaciuta molto. E no, e B, volevo dire, scusa, si prende la briga di caratterizzare i personaggi in modo abbastanza profondo, tutti. Non il film era un po' così. Il film non l'ho visto, il telefilm ha anche il tempo per fare sta roba, quindi anche lo zio, come si chiama? Iron? No. Non mi ricordo, sì. Come si chiama lo zio? Il personaggio più bello della serie. Sì. Iro. Sì. Non lo conosco, ma mi ricordo il nome. lui che era un personaggio molto molto bello già nel cartone, ma che essendo un cartone c'era, aveva questo ruolo. Però lo percepivi meno. Era più incentrato sulla crescita del nipote. Invece qua nel telefilm gli danno spazio e mi è piaciuto molto. Sì, è carina, consigliata. E poi io in realtà ho iniziato un sacco di roba, brutta e bella. Allora, ho guardato metà di The Artful Dodger. Non so se avete, ne avete mai sentito parlare. È la serie TV sul primo chirurgo. Adesso non so se in realtà è esistito veramente o no. Non so se è tratto da una storia vera o comunque dovrebbe essere tratto forse da un romanzo. E praticamente parla di questo... Jack Dawkins, che praticamente nella sua vita ha fatto il truffatore e poi si ritrova in una nave della Marina, dove per sopravvivere impara a operare i pazienti e quindi diventa un chirurgo. Sbarcato in Australia continua a fare il chirurgo, però il suo passato lo raggiunge. E da tuffatore, quindi c'è tutta la storia, poi la storia d'amore, tutte le puttanate. È una serie TV bruttina, parecchio. Ah. Assomiglia un po', lo so che l'ho presentata e sembrava una cosa carina, ma non lo è. E sembra un po' una serie TV anni 2000. E la solita serie del... sembra un po' una serie italiana. Come sei italiano. Come sei italiano. Stai per dire. E infatti non la finirò, mi sono interrotto e mi ha rotto il cazzo. Sembra un po', no, una serie italiana, no, ma un po' tipo un po' un misto tra la Dottor House e La solita cacata in cui lui è un po' così sbarazzino, però il suo passato lo costringe ad essere un truffatore, no? Non un truffatore, come si chiama? Pickpocket, vabbè, il Ah, tipo, quello sì, quello che che ruba i ruba, portafogli. esatto, sì. Borseggiatore. Un borseggiatore, e poi però c'è lei che in realtà vuol fare lei il chirurgo, ma lei è donna, cioè, sai, quelle cacate, vabbè. Perché sono donna come la Panelli su scherzo, E scusate. poi ho visto un'altra serie, questa l'ho vista intera, si chiama Morte e altri dettagli, è su Disney Plus. Ah, ho visto il E primo episodio. allora, sembra carino, vuole un po' scimmiottare l'ondata di giallo alla, com'è che si Out. chiama? Esatto, Knives Out, e anche Assassino sull'Oriente Express, che adesso sono usciti tutti i film e cosa. Lo fa fino a un certo punto in cui va tutto in vacca, però è corta e quindi l'ho finita. E non so se avete voglia di guardarla. Non è brutta in senso stretto, ma non è Only Murders in the Building, ecco, non ci va neanche Guarda, vicino. tu Salla, sai che quando inizio a guardare una serie è difficile che io smetta. Cioè, io ho finito a guardare la seconda stagione di Halo per dirti quanto è Che difficile. schifo. È Però devo guardarla. Dove Su la posso trovare? internet. No, non trovarla. Lasciala non Ma è trovarla. Lasciala non tanto peggio scoperta. della prima. No, in realtà no, è meglio della prima, secondo me. Però Allora, sono non arrivata alla fine spoilerà della molto. prima. Esatto. No, però questa qui l'ho lasciata. Cioè, io alla fine del primo episodio non ci stavo capendo un cazzo e c'era lui che ogni volta faceva tipo la scenetta alla Occhi del Cuore. Sì. Ah, ma tu sapevi questa cosa? Cioè, tipo, o Ma alla in realtà il tizio problema che vede qualsiasi cosa, cioè. ti hanno ingannato, perché il problema non è quello, il problema è quando inizi a capire. Quando inizi a capire, allora è la puttanata e quindi è ancora peggio. No, cioè, non intendevo. Cioè, il problema qual è? È che se tu ogni volta usi lo stesso trucco dell'investigatore strafigo che già aveva previsto tutto, che già ha capito tutto. Però in realtà non è che lui ha già capito tutto, cioè lui è un coglione, tu non la guarderai, te lo dico io. Lui è un coglione e a metà serie scopri che lui in realtà è un coglione. Ah, E quindi ok. la serie va completamente in vacca, cioè si ribalta, lei diventa quella che a un certo punto capisce come fare le indagini, quelle indagini, e lui diventa un coglione, tranne che poi nell'ultimo episodio lui torna figo. Immaginavo, infatti. Però è comunque un coglione, cioè nel senso non è che torna figo perché è un bravo investigatore, torna figo perché, boh, gli doveva andare un ruolo, non lo so. Cioè è fatta proprio male, però ormai ero a metà e l'ho finita. E poi, vabbè, l'ultima cosa, poi non abbiamo visto con abbiamo cominciato Mr. e Mrs. Smith, ma non ci ha No. convinto neanche quella con Coso, quello di Community. Provera, sì. Sì. No, L'ultimo. questo è una cosa che non è una vera e propria serie TV. Io ho cominciato a vedere e dovrò continuare. È un documentario Ah, già. Ah. su National Geographic, che quindi è su Disney Plus, che si chiama Photographer. E ogni episodio segue uno o due fotografi molto famosi che contemporanei, cioè quindi proprio su di loro li film, eccetera, che di fatto ha rivoluzionato il suo settore, ma in modi assurdi. Cioè, per farti capire, il secondo episodio è su questo fotografo naturalistico che in realtà si è creato questa nicchia in cui fa foto a cose, cioè fa delle foto a animali, ma in modo assurdo, stranissimo, tipo. Ha studiato adesso, ha cercato dei paper su come fare crescere un uovo senza guscio Ah, e ok. per poi fargli le foto mentre cresce. Cioè, sono molto di nicchia, molto famosi e Cioè, nel primo episodio c'è, ci sono, c'è anche, come si chiama quella che adesso è anche a Torino? Margaret. Sì, non mi ricordo. Vabbè, lei e il marito è quello che ha fatto la foto alla foca assassina a tipo un metro. Minchia. Perché è pazzo e non sente il pericolo, praticamente gli piace, gli piace fare foto, no, gli piace fare foto ravvicinate, senza zoom, agli animali, quindi anche tipo l'orso gigante, lui è a un metro di distanza e gli fa la foto. Quindi sono, è molto interessante, poi vabbè, a me piace anche perché appunto è quello che mi piace, però se nel caso foste interessati, ve la straconsiglio, è fatta veramente bene e bella bella. Sembra che un minimo di follia sia necessaria per fare... Vabbè, ecco, cioè tutti i grandi sono un po' pazzi. Figo. Figo. No, io l'ultima cosa che ho visto proprio giusto questo weekend è Fallout. L'ho ah! Tutta dall'inizio alla fine. Tutta? Tutta, tutta. Tutto, tutto. E allora, io, premessa, ho giocato tutti i Fallout, diciamo, principali usciti gli ultimi, quindi da 3 in poi, 3, New Vegas, 4. Non ho giocato 76 perché è un po' una merda. Vabbè. E devo dire che ci sono riusciti, cioè... Non è una serie della vita che consiglierei a chiunque, perché non è The Last of Us. Cioè, non andrò a dire a mia sorella che non sa un cazzo di videogiochi, vatti a vedere Fallout. Però, magari, se ci avete voglia di una serie un po' divertente, perché comunque c'ha un po' di umorismo quello di Fallout. Non so se avete mai giocato, Andrea. Io no. Io no. Nessuno? Io ho giocato alla versione quella, cos'era? Non c'entra un cazzo, è tipo gestionale in cui hai lo shelter. Ah, ok, lo shelter. Ah, sì. Però già in quella secondo me un po' di umorismo c'è, cioè quell'umorismo... Sì, sì, po'... sì, sì, sì, certo. No, ho capito, l'ambientazione. Esatto, sì. È un po' una satira dell'America anni 50, dell'idea di futuro che c'era nell'America anni 50, quindi molto... maccartista, quindi anticomunista, molto tutto nucleare, tutto capito perfetto, tutto capito molto razzista, misogino. Quindi è tutto un po' una parodia, una satira, ma la cosa che mi è piaciuta molto è che sono riusciti a beccare anche la parte non parodistica, non satirica, cioè la parte più seria, la parte di critica, la parte di... Cioè una parte che famosamente, secondo me, molti ignorano, giocando a Fallout, che è di più, come dire, una serie di considerazioni politiche e una serie di momenti di personaggi e di storia molto fighi. Quindi ci sono proprio momenti che sì, sono carini, simpatici, ma sono anche momenti che sono veri, diciamo, per i personaggi. Non voglio spoilerare troppo, perché se non l'avete mai visto... Ma quanto devi conoscere del gioco? Nulla, nulla. E questo è bello, cioè è strutturato come se fosse un gioco, quindi se tu non hai mai visto giocato un Fallout, ogni Fallout come gioco è ambientato in un posto diverso, in un momento diverso della storia del mondo. Quindi hai dei Fallout... Beh, la storia, diciamo, in generale è che, tipo, in questo universo non è mai stato scoperto il microprocessore, diciamo. O meglio, ufficialmente non usano microprocessori. Poi è Dune. Qualcuno qualcosa ha fatto. Tipo Dune. e quindi la tecnologia si è evoluta in modo diverso, in modo più, come dire, come si immaginavano negli anni 50 con il nucleare e queste cose così. E nell'anno 2077 di questo universo sono cadute le atomiche. C'è stata un po' di atomiche, non vi dico come o perché, però c'erano delle tensioni con i comunisti e sono state sganciate le atomiche e quindi c'è stata un'apocalisse, diciamo, nucleare. Ci sono queste vault, questi, diciamo, tipo bunker sotterranei di questa azienda che si chiama Vault Tech, che sono dove si sono, diciamo, rintanati, rifugiati degli umani. E di solito, cioè, in molti giochi quello che succede è che tu parti da una di queste vault, succede qualcosa, esci, esplori l'intorno e scopri cose che non vi dico. E la serie, spoiler, ma è strutturata più o meno così. Quindi non vi dico nulla su nulla, perché la cosa bella è scoprirla, secondo me, anche con la serie, un po' l'universo e i personaggi. Però ripeto, non è un capolavoro, cioè, nel senso, non è una cosa che dici, ah, devi assolutamente guardare Fallout, anche se Ma non te ne va, cioè. secondo te A quanto me è piace un... Walton Goggins, io la guardo a C'è prescindere. Walton Goggins, esatto, bravo Andrea, che è un motivo in più. C'è Kyle MacLachlan, che è quello di Dune e Twin Peaks. E ci sta quella di Yellow Jackets, che però vabbè, voi non so se l'avete visto. C'è quel tizio di... Oddio, come si chiama quel telefilm? Quel telefilm che sicuro tu hai visto, Salla, perché è un film, un telefilm del stile tuo. The Lost. The Blacklist? No. Ah, forse anche su Lost c'era lui. Blacklist ho visto comunque. Dici C'è Emerson? quello di Severance. Quello di Zach Cherry. Severance? Zach Cherry. Non Zach so che che attore stiamo, di che attore stiamo parlando. Cherry. Aspetta, TV show. Si chiama Michael Emerson, sì. È Vabbè, quello di Lost. lui. Quello di Lost, sì. Michael Emerson l'ho visto. Sai che io non ho visto un cazzo di Michael Non lo so, avete visto? Emerson? Non hai visto un cazzo? Quindi non era lui, ok, mi sono No, sbagliato. non era lui. Vabbè. Ve la consiglio se appunto, se avete voglia, un po' di quella. No, ma dicevo, secondo te quanto è un po' per rivendere il gioco e quanto è perché effettivamente ce n'era bisogno? Allora, prima di vederla, ti avrei detto è per vendere il gioco. Perché anche perché le spoiler, vendite il sono gioco è stato impazzite. venduto. Sì, il gioco, cioè Fallout 4, che è l'ultimo venduto, anche no, l'ultimo single player, poi Fallout 76 è multiplayer, sono in sconto in questi giorni, non a caso. Però secondo me non avrebbe venduto così tanto se non fosse stato così ben fatto a livello produttivo, cioè proprio i set sono fatti bene, la sceneggiatura regge, i personaggi sono fighi. Fighi è una parola grossa. Walton Goggins è figo, il Vabbè, ma personaggio è lui è gol. figo sempre. dà Quindi. un po', ridà un po' di western, un po' di, appunto, di Westworld, perché il tizio è quello di Westworld, Jonathan Nolan. Però non è così bello come Westworld, e quindi non mi deluderà come Westworld, quindi sono contento. No, è veramente, secondo me è nato più da un amore per quell'ambientazione e quel tipo di tono, che altro. Dire qualcosina poco lo dice, ma veramente poco, quindi no, direi di no. O ancora comunque non ci è arrivato, mettiamola così. Va bene. E in chiusura abbiamo del tempo? Allora, volevo dire due cose. Uno è chiederti cosa ne pensi del film di Borderlands. Non lo so, non so cosa dire. Vabbè, No allora comment. niente. Non lo so, a me puzza un po' di merda, però. Sì, a me pure, però c'è Jack Black, quindi devo aspettare che esca. Come Jumanji. L'altra cosa era quello che diceva Angela all'inizio. No, Libro. però vabbè, in realtà è molto lontana. Ha comprato i diritti quando l'anno scorso? L'inizio di quest'anno. Inizio quest'anno? Ah, praticamente Forse fine dell'anno scorso. c'è un libro famoso al momento. Né tra i lettori di No, romantasy. aspetta, è famoso. No, in realtà il cazzo, adesso l'ho visto in tutti i banchetti del merda. Perché ormai si è appassionato anche tu. No, è un libro famoso perché è diventato famoso tramite TikTok. E il suo Oh no. genere È un book fantasy. È un book fantasy. E, cioè è un libro fantasy e romance. Ok, immaginavo. Tutte queste mani avanti, poi hai detto anche TikTok, ho detto ok, questo è... Ah, guarda che, allora, è una roba che io ho scoperto di recente, ma TikTok e Instagram sono una roba assurda per consigli di libri. Quando non sai cosa leggere, alla fine la gente, cioè, gente che ne parla, quindi vabbè, poi magari vabbè, ti piace, ma non è no, il però... punto del coso. Il mio punto, il punto della, del, di questo podcast è il seguente. Il libro è stato comprato quest'anno, i diritti, sì, del primo film, del primo libro. E... Non so se della serie del primo libro. Non lo so, in realtà. Forse di tutto, forse di tutta la serie. È comprato da Amazon. Quindi, potrebbe essere o... Considerando che questi saranno almeno 5 libri, e che non sono ancora usciti, ne sono usciti solo due, potrebbe essere o Il Signore degli Anelli. No, beh, non ho queste aspettative così alte. No, non il libro, Il Signore degli Anelli, la serie. Twilight, dai, non ho queste aspettative così alte, cioè nel senso... Tipo Twilight, no, non è tipo Twilight in realtà, cioè nel senso potrebbe diventarlo, sicuramente. Però il libro, perché io li ho letti, uno e mezzo, e è un buon fantasy, cioè non me l'aspettavo. Paradossalmente, ma do che giudichi io chi sei? Mesi a dirmi no, che non è vero, che li giudichi, non è vero, e guarda, no, pasca senso... in diretta con testimoni. È un buon fantasy. Potrebbe diventare un buon fantasy anche la serie, nel senso che la storia, la parte romance è relativa, cioè diventa... Cioè può diventare Twilight, perché può farlo tranquillamente, però potrebbe anche essere una roba più la Game of Thrones, come che quindi non c'è il vero romantasy, ma è più melotrombo, o una via di mezzo. Allora, adesso io non so se voi avete mai letto i libri di Twilight, sono una roba diversa, questo nel senso che quello è ah, meno erano, fantasy. Erano altri tempi. Erano comunque altri tempi, dove di sta roba ne usciva neanche un terzo, erano i primi di quel genere. Però quello era un libro più romance che fantasy. L'elemento fantasy non era, a parte l'ultimo, neanche, particolarmente sviluppato o approfondito. Che era secondario alla tensione sessuale. Esatto. Ma neanche visto... perché lei è mormone, quindi insomma... Cioè... Ah, esatto. Io ho visto un video di 2 ore e mezza in queste ultime settimane di analisi su Twilight e l'ho rivalutato. Dove tutti questi elementi, diciamo, confluiscono insieme, ed effettivamente cioè, ho capito molte cose, okay, diciamo, di lei, di come ne parlava e di come è stato percepito il romanzo. Sì, no, ti dico solo che vabbè, in Twilight non ci sono scene di sesso esplicite. Esatto. Quasi, vabbè, è stato molto scritto. Esplicite. Non è questo il punto, concentrati, visto quello che ha letto Martin. La cosa che per me sono più esplicite qua, se posso dire, rispetto a Martin, però va bene, non ci sono fratelli. Ce ne sono di meno, ma sono molto più espliciti. Ma la cosa traumatica in Twilight è che racconta il giorno dopo, cioè la protagonista si sveglia e ha tipo, non mi ricordo cosa è successo, però è stato violento e ho dei lividi. No, beh, chiaramente qua non è così. No, la cosa che volevo dire è che in realtà è interessante quando uscirà, perché l'elemento fantasy c'è, è forte, c'è la base, c'è l'ambientazione, è fatta sì, bene, sì, è solida. Quindi, però Prime non è famosa per essere, quindi potrebbe essere La Ruota del Tempo o Il Signore degli Anelli. A me La Ruota del Tempo è piaciuta un sacco. Però Il Signore degli Anelli hanno preso il libro e l'hanno violentato. Ah no, vabbè, qua sicuramente faranno... Cioè, tu ti lamenterai perché sarà molto più adolescenziale. Esatto. Avendo un ma beh, ma anche il libro ha un target che sono lo young adult, quindi... Sì, però un conto è adolescenziale, un conto è Il Mistero dei Templari. Cioè, nel senso... No, secondo me sarà tipo Gossip Girl moddato fantasy. No, non credo. Gossip Girl... Gossip Girl mondato. Spero di no, perché altrimenti non lo guarderò. No, poi dipende cosa vogliono farne, perché in realtà appunto la parte... No, perché ci sono battaglie, ci sono un sacco di morti, cioè è molto violento, c'è un ci sono un sacco di elementi fantasy appunto forti, per cui è interessante. Vabbè, basta. Comunque ho sentito il giudizio nella vostra voce, no, su questa roba. No, allora, ti ripeto, io mi sono ricreduto su Twilight, ovvero, comunque non lo leggerò, però ne ho scoperto i pregi e ne ho compreso i difetti. Cioè, ho capito i problemi che poverina ha l'autrice, però ho capito anche il potere, come posso dire, il motivo del successo sicuramente e i lati positivi, cioè mi sono un po' ricreduto, un po' mi sono anche, come dire, ho dovuto temperare, diciamo, le mie opinioni di Twilight, quindi sicuramente non è un genere da scartare a priori. No, vabbè, chiaramente deve piacerti, cioè, nel senso, se ad esempio qualcuno si è lamentato che romantasy ci fosse una parte romance. Sì, vabbè, ma la parte romance non è una vera parte romance, è tipo, sono pagine e pagine di lei che guarda i suoi capelli. Ma lei ha tipo 20 anni e racconta tutto questo. Vabbè, ma io non è che parlavo, quindi, passavo il tempo a ammira i suoi addominali. Non è che a scuola io guardavo quella e tutta la lezione dicevo che culo che ha, che culo, sì, che, ha, che, culo che ha, che culo che ha, che culo che ha. Ma non è che così. Ascoltavo anche la lezione ogni tanto. Infatti ascolta anche la lezione. Sì, Sala, però di raccontare tu che ascolti una lezione, a me non me ne frega un cazzo, sinceramente. In realtà noi facevamo sul quaderno facevamo i piani del Signore degli Anelli per il pomeriggio, poi per vincere la battaglia, io e Arci. Quale battaglia? Giocavamo con le miniature del Signore degli Anelli e facevamo i piani durante le lezioni. Wow, chiaro. Chiaro. Comunque dipende, cioè se vogliono fare una roba per il target del libro potrebbe diventare una roba molto adolescenziale, appunto. Però lì però secondo me è detto, esatto, perché se hai pagato i diritti così tanto, secondo me non vai a fare una roba per un pubblico specifico. No, però in realtà appunto il libro è uno young adult, ma non vuol dire che l'hanno letto soltanto dai 15 ai 18. No, infatti, cioè, in realtà è diventato un successo. Potrebbe diventare una saga grosso. Epica, volendo, nel senso di epico fantasy. Oh, se però mi tolgono la parte romance, mi lamento. La parte romance deve essere per forza, perché loro due chiavano in continuazione. Non è vero, l'hai detto anche tu. E sono letteralmente tipo due le scene. Vabbè, niente, basta. Sala è puritano, Sala non vuole vedere... o immaginare scene di sesso, mai, solo... Io le ho saltate, quelle... Sì. Ho capito, sono 50 pagine, le hai saltate anche tu. Ma sei puritano. No, io tengo il giudizio. Esatto, poi parlano un sacco mentre trombano. No, ma il libro è carino, ve lo consiglio. Vedrò. No, il film non... Cioè, il libro non so se leggerlo, perché la mia lista è ultra, ultra mega lunga. Sto ancora tipo al terzo di The Witcher, devo iniziarlo adesso, quindi... Però sì, la serie la guarderò. O il film. Uscirà, perché in realtà hanno comprato... Hanno comprato i diritti, beh, con calma. Anche di Alcotar, hanno comprato i diritti, ma nel 2020. Sì, però... Da come me l'hai descritto, quello mi sembra. Ah, no, cioè, allora. Questo è molto cinematografico, cioè è molto facilmente traducibile in una roba figa. No, perché c'è stata questa discussione con delle mie amiche su una serie che è uno dei successi di questo genere, di questa qua, Alcatara, a Court of Frozen. Sai che ti ascolteranno, vero? Ma Erika mi potrebbe ascoltare. No, è molto famoso, ma secondo me è molto... No, dico le sue amiche che ora insulterà. No, Loredana, libro del merda. Secondo me, però, è molto più debole rispetto a Four Wing. E anche loro l'hanno acquistato Prime? E anche loro l'hanno acquistato Prime. Miglia, Prime e infatti per quello, cioè, uno dei due non uscirà più, perché a quel punto o fa uscire Akotar, perché dicono che in teoria l'hanno anche già scritta la serie, e poi faranno con la C. Però il problema è che di Four Wing, secondo me l'elemento fantasy è molto più solido, almeno a me piace molto di più, lo trovo molto più interessante. In Akotar è molto debole, no, molto... Ma è Ulu, ho sbagliato, non so perché ho convinto fosse... Ah, non so, scusate. È molto più debole e... Vabbè, non che Four Wing sia originale, per carità, ma qua siamo a dei livelli del tipo, oh, c'è la corte d'inverno, il palazzo, è tutto... Il regno è di ghiaccio, tu sempre inverno e i soldati sono degli orsi polari. Vabbè, come si chiama? Il Golden Compass, là, come cazzo si chiama? Anche sì, io ho pensato a quello. Però la bussola d'oro è anche altro. Sì, cioè quando io ho visto quello ho pensato un mix tra Narnia e la bussola d'oro. Ed era comunque tipo 40 anni fa. Sì. Infatti, boh, secondo me è molto meno interessante come serie TV. Ma... Scusate, c'è stato, appena mi ha fatto per vedere che la serie è in sviluppo nel 2024, ma ormai non ci credo più. Febbraio è già passato. Sì. Dimmi, Jacopo. Volevo dirvi una cosa, ma... mi sono scordato. Stiamo parlando di cose di rose... di libri, che devi leggere The Witcher. Devo leggere The Witcher... questa cosa Young Adult, vabbè, Però in realtà, cioè, se Amazon venisse da te, tipo, tu hai scritto un libro, no? Amazon viene da te, ti fa dacci un po' di soldi, no, dacci i diritti, altrimenti non ti vendiamo il libro su Amazon. Che cazzo fai? Cioè, devi darti i diritti. Vabbè, ho capito, ma penso che comunque l'abbiano ricoperta di soldi. No, in realtà il libro è pubblicato da una casa editrice non grande. No. C'era una piccola casa, No, una casa editrice americana non particolarmente grande. E ha fatto il botto per TikTok. Quindi in realtà, cioè, nel senso, conta che è un botto di gente. Beh, la carino il libro. Ah, sì, è carino. Nel anche senso... dei meriti la scrittrice. Ma sì, non ho detto quello. Vabbè, però ovviamente il passaparola da TikTok ha aiutato a diffonderlo. E però penso l'abbiano anche ricoperta di soldi per i diritti, cosa che ovviamente ti aiuta a dire sì. Beh, a me aiuterebbe molto anche più della minaccia di non ti vendiamo il libro su Amazon, devo dirti la verità. Qualsiasi cosa volete che io dica, riempitemi di soldi. Esatto. Vabbè, avevate altro da aggiungere? Andrea, cosa hai visto in questo tempo? Hai visto... No, un cazzo, scusate. Baldur's Gate. Ma manco quello, purtroppo. Mannaggia, Andrea. Andrea, devi cominciare a guardare un po' di televisione, non guardarla fa male. vorrei un po' di tempo libero per guardarla. Allora, se non hai tempo per guardarla, leggi For Wing. Va bene. mentre guidi la mattina. Mentre guidi. L'audiolibro, ascolti. Esiste l'audiolibro? Figurati se non esiste un audiolibro. Se no te lo registro, adesso... capito? Merda, l'audiolibro mi vergognerei se tipo ci fosse in macchina, tiri giù il finestrino, cioè, e il suo fallo enorme. cioè... No, For Wing l'ho letto. Ci sarà il cazzo, sicuramente. Sì, speciale. Salvo, dovresti fare il chat e tipo fare l'occhiolino se qualcuno ti guarda. È tratto da una storia vera. Iron Flame, cos'è il sequel? È il sequel, sì. Ok, ma me li compro, 12 euro, via. No, che cazzo fai, Andrea? Però no, faccio a leggerli, scusa. Vabbè. Beh, cioè, li cerchi, ti mando... su dei siti, esatto, ti e lo leggi dal cellulare 2 pagine alla volta, tanto non è che sia particolarmente impegnativo. Vabbè, mentalmente. Libri, shop, via. Shop. Vabbè, ciao. No, dicevo, grazie di averci seguito, la puntata si chiude qui? No, perché non è un podcast di libri, fate il tuo club di lettura e leggete i libri che volete. Guardate la serie TV di Fortune quando uscirà. No, e grazie di averci seguito fin qui. Vi abbiamo dato un sacco di spunti di serie iniziate e non finite. E anche alcune serie finite. E... ciao, ci vediamo prossimamente. Alla prossima! Alla prossima! Ciao, ciao! Ciao.